Vlog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Concentriamo la 600 sotto il fuoco del nostro obiettivo. Per un momento sarà lei la nostra diva. Cominciamo dal motore. È ancora dietro la vetrina e non frena più la sua impazienza di mettersi in moto. Questo è l'interno. Come vedete, ampio al punto che un Marcantonio alto 2 metri al posto di guida si troverà perfettamente a suo agio. Se lasciate sgombero il sedile posteriore, quante valigie ci potete mettere? Un giro completo e troveremo il posto anche per borse e borsette, pacchi e pacchetti. Ma adesso è il turno della grazia. La 600 è un'automobile che, oltre alle doti di solidità, manovra, girato appunto da una società di produzione proprio della Fiat, esattamente 60 anni fa, nel 1955, per lanciare le meraviglie della nuova 600. Voi direte: perché questa mattina parli della 600? Ma perché compie 60 anni, ma non trovo mattina migliore in cui siamo tutti presi da questa sorta di maratona elettiva per il Presidente della Repubblica, in cui tutto sembra confermare il fatto che non ci saranno sorprese, su quello che noi siamo, anche perché ci fu la 600 60 anni fa. Ho visto questo documentario una mezz'ora fa e ho capito perfettamente la differenza, come cambia la qualità del tempo. Era intriso di ottimismo. Usciva la 600, un capolavoro. Gli italiani allora avevano dei cervelli, dei signori, sembravano Umarell in giacca e cravatta, grisaglia e pancetta, costruivano degli oggetti meravigliosi che tutto il mondo invidiava. La 600, soprattutto la 600 multipla, che era una sorta di antesignano del SUV, che in 3 metri circa ci stanno 6 persone dentro, erano i vecchi taxi che giravano per Roma, quelli verdi e neri, erano qualcosa che il mondo ancora non conosceva e noi l'avevamo inventati. E c'era un grande ottimismo in questi film che lanciano la 600. Per la prima volta la famiglia italiana avrebbe potuto accedere al sogno infinito di avere un'automobile, in cui c'entrano tutti e quattro. Ci ficcano dentro 4 signorine dei tempi, quindi con dei bei chiapponi e delle belle tettone, con il cappello pure in testa, e c'entrano precise. E c'entrano pure le valigie, e c'entrano pure i beauty case, c'entrava tutto. Tutte lì stipate, magari sì, un po' promiscue, però era la macchina che l'avrebbe motorizzata. Beh, oggi vorrei parlare della 600. A me diverte parlare della 600. Io ho guidato la 600, ho conosciuto la 600. La 600 era diversa dalla 500. La 500 è ancora una macchina fighetta, ancora girano per strada le 500 degli appassionati. La 600 è un po' scomparsa, si vede poco. Perché? Perché ci ricorda in realtà un'equazione che non è figo ricordare, l'equazione della famiglia che cresceva, della famiglia motorizzata. In questo divertente filmatino d'antan si vedono gli usi possibili della 600. Si poteva andare sul bordo della strada, come allora accadeva, e fare un picnic, quindi si aprivano e uscivano fuori tovagliette e tavolini, la famiglia, lui sempre in giacca e cravatta, lei sempre con il cappello in testa, si sedeva con le sedioline pieghevoli e faceva il picnic. Oppure la cosa più paradossale: 600 parcheggiata sul bordo di un laghetto fantastico, potrebbe essere quello di Villa Borghese, allora si andava ovunque con qualunque automezzo, non c'erano limiti. La signora sempre con il cappello, sempre con la gonna a palloncino, seduta su una seggiolina pieghevole accanto, già pronta con il fornelletto, e il signore apre il tettuccio della 600, c'era una versione fantastica, si apriva una sorta di tettino, allora non esisteva l'idea di un'auto cabriolet utilitare, e con il cappello in testa, la canna da pesca, pesca da sopra la 600. 800 24 0024, cosa ricorda a voi la 600? Chi voi ha guidato una 600? Ha posseduto il sogno che in famiglia, pagando cambiali e cambiali, perché costava circa quanto lo stipendio di un anno medio dell'italiano, però con le cambiali si poteva acquistare. A proposito, guardate un po' con la multipla quante cose si possono fare. Sì, d'accordo, è un po' la cenerentola della famiglia, quella che fa tutto in casa e fuori, mentre le altre sorelle vanno a divertirsi. Ma se ricordate la favoletta, è quella che alla fine sposa niente meno che il figlio del re. In questa speranza si fa in 4 per accontentare tutti. Intanto porta a casa il vino per la festa di nozze. Questo era l'aspetto edulcorato. della 600, dell'auto teneva unita la famiglia, i buoni sentimenti, ma grazie a Dio c'era allora chi faceva dei film gagliardi e proprio in quegli anni uscì il film I Mostri, in cui nella rassegna delle mostruosità umane c'era un fantastico Tognazzi che andava anche lui a comprare la 600. Entra nella fantastica auto rivenditore della Fiat, in cui erano tutti con gabanella e tuta, tutti ossequiosi, la sceglie di un bel colorino che tenga meglio lo sporco. Erano dei colori molto sfumati, fra il cacarella di bambino che beve solo latte, all'azzurro carta da zucchero, a una sorta di begiolino faccia da malato di stipsi e via dicendo. Erano dei bei colorini. Lui compra questa 600 fantastica, avverte la famiglia, grande festa, affacciatevi tutti, verrò a parcheggiarla sotto casa, strade deserte, ovunque si trovava parcheggio. Però la prima cosa che fa per inaugurarla, ci va a puttane, sì, perché la 600 coronava anche il sogno dell'alcol deambulante. Le 600 venivano usate, mandando giù il sedile, anche per fare che l'uso, anzi soprattutto per fare che l'uso, anzi al sedile ribaltabile della 600, che veniva fornito fuori serie da alcuni carrozzieri con una piccola aggiunta di qualche migliaio di lire, si deve probabilmente gran parte del boom demografico di quegli anni. Margherita, sono io, l'ho presa, sai? Sì, in questo momento. No, avorio non c'era, l'ho presa grigio alba. No, la targa. Ce l'ho qui davanti a me. Sì, ma forse è meglio, sai? Eh sì, perché tiene di più lo sporco. Ho firmato cambiali per 25 minuti, c'ho ancora il braccio che mi fa male. Ma certo che ce la facciamo, perché non ce la dovremmo fare? Abbiamo sempre pagato tutto. Ma dai, Margherita, perché ci dovremmo pentire, scusa? Non esageriamo, la macchina ormai non è mica più un lusso, è una necessità per tutti. No, i bambini non li mandare a letto. Venite tutte alla finestra, così quando arrivo suono e la vedete. Cosa? 800240024, cominciano ad arrivare messaggi dei nostalgici della 600. Mariella da Firenze, a 63 anni, ha fatto la scuola guida sulla 600. Tra l'altro la 600, l'850 arrivò negli anni 70, ma fino a metà degli anni 80 ancora la vendevano nei paesi dell'est, una macchina fantastica. La multipla è l'antesignana del monovolume, non del SUV. Vabbè, che differenza. Allora nella percezione dell'automobile era un SUV, era una macchina che serviva per una molteplicità di usi, infatti era la macchina che usavano i geometri per andare a costruire i primi palazzi che cementificavano le nostre periferie, e la usavano i tassisti, la usavano i piccoli trasportatori. La monovolume è un'idea che è stata scritta quando hanno cominciato a fare le monovolume. In quegli anni la macchina di lusso doveva avere tre volumi, nacque l'850 proprio perché era una 600 a tre volumi, perché la macchina dei poracci era la monovolume. Quando gli italiani hanno avuto un pochino più di soldi, volevano la macchina a tre volumi, che assomigliavano a berlina. Poi questo me lo confermerà Giacomo Arosio. Buongiorno Giacomo Arosio. Buongiorno signor Nicoletti, la ringrazio di avermi chiamato a dare la mia opinione e innanzitutto appunto volevo riconoscere... No, intanto la presento, lei è un appassionato d'auto d'epoca, è titolare di un portale www.auto-classiche.it che è un sito di annunci, di storia e cultura dell'auto d'epoca, quindi anche della 600 avrà qualcosa da dirci. Esattamente, proprio in questi giorni mi sono occupato di questo argomento perché appunto ricadono i 60 anni della 600, che venne presentata nel mese di gennaio 1955 al Salone di Ginevra. Io personalmente ritengo che la Fiat 600 sia una delle macchine più importanti nel panorama automobilistico italiano del secondo dopoguerra. È una macchina che ha una grandissima importanza, un'importanza non tanto dal punto di vista tecnico, perché è una macchina che ha una meccanica abbastanza convenzionale, ma dal punto di vista sociale, perché, come giustamente diceva lei, è la macchina che ha il merito di motorizzare gli italiani. Potevano andare in villeggiatura con tutta la famiglia con le valigie, è una cosa mai pensata prima. Cioè quei viaggi che prima si dovevano fare in treno o con la corriera, come si diceva allora, diventano accessibili alle famiglie, e io penso che rappresenti il secondo tassello della motorizzazione di massa, perché il primo è costituito da Vespa, Lambretta e scooter simili. Il primo passaggio verso le quattro ruote, verso il poter andare in giro con la famiglia, riparati dalle intemperie, avere una maggiore autonomia, un maggiore comfort, è appunto merito della Fiat 600. Un attimo solo, Giacomo Aroso, i primi ascoltatori, 800 24 00 24, ricordi e nostalgia della 600, Massimo. Sì, buongiorno, io sono relativamente giovane, ho 46 anni, ma ho dei ricordi dei miei genitori, la cui prima macchina è stata una 600, e mio padre per motivi di lavoro ha lavorato nel profondo nord, proprio in Valtellina, in cima d'Italia, e i genitori, i propri genitori erano toscani e bolognesi, quindi andavamo in vacanza, intanto era una cosa importante perché finalmente uno riusciva ad andare a raggiungere i propri cari grazie a una macchina sostanzialmente. Oddio, faceva 100 all'ora proprio tirata, quindi erano vacanze tranquille, viaggi tranquilli. Anche perché c'è una giornata intera sostanzialmente a fare 400-500 chilometri, ma una particolare... Beh, io guardi, mi ricordo Roma-Perugia, erano 4 ore ci volevano con la 600. E poi la 600 aveva questa particolarità che consumava molta acqua al radiatore, quindi in macchina ci doveva essere posto anche per diverse bottiglie d'acqua, e ogni tanto durante le soste dovevamo aggiungere dell'acqua al radiatore. Sì, che erano dei fiaschi di vetro, bottiglie, che la bottiglia di plastica non esisteva ancora, anche questo da dire. Mario, buongiorno. Lei. Allora, io ho un ricordo molto chiaro della 600. Quando uscì, io adesso ho più di 70 anni, andavo ancora a scuola, ricordo assieme agli altri miei amici, quando vedevamo una 600 che parcheggiava, c'erano le prime, quelle grigio topo, sì, con i vetri scorrevoli e le porte che si aprivano non antivento, ma si aprivano in altro senso. Esatto. E noi, se era guidata da una donna, regolavamo il passo in modo da arrivare all'altezza della macchina quando la donna stava scendendo. Eh sì, perché poi al tempo le donne non è che mettano i collan, si vedeva, no, di roba. Infatti, per noi c'era anche un sacco di pelo, erano altri tempi, non è come oggi. Vedere quel pezzo di gamba tra la fine delle calze e l'inizio degli slip era come vedere selfie in porno oggi, per dire come eravamo messi allora. Quindi a questo aspetto ludico legato alla 600 che nessuno ha sospettato dei rievocatori, ma noi questa mattina, grazie al ricordo del nostro ascoltatore, abbiamo rimesso sul piatto. Melog, cronache meridiane. Rimanevo a casa, là nella mia logera, ora sarei arrivato coi figli e la pancera. Avrei la moglie grassa, l'era della 600, mutua, televisore, salotto e doppio mento. Questo è il contraltare alla 600 del cattivorio, come direbbe Pierangelo Buttafuoco. Questa era una canzone molto cara alla destra italiana negli anni 50, 60 anzi, la cantava Pino Caruso nel 67 al Bagaglino. Era il mito del mercenario, il giovane di Lucera che dalla profonda Lucera partiva, andava nel Congo a difendere non so quale ideale di uomo bianco colonizzatore, veniva massacrato e ammazzato, e mentre moriva con la nostalgia delle puttane conosciute nei bordelli, le loro ghepierdi, che avrebbe fatto una bandiera, sbeffeggia l'italiano medio che in realtà a Lucera aveva la moglie grassa, i figli, la pancera, le rate e la 600. La 600 era fra gli status symbol del medio borghese italiano, ma questo non va visto come elemento negativo. Marisa, buongiorno. Nicoletti, sì. Sono molto contenta di poter parlare con lei, è tanti anni che la seguo. Sì, ma adesso non si acciti troppo, andiamo al punto. No, niente, il punto è molto semplice. Io ricordo che mio padre ebbe la prima, come prima macchina, una 600 di seconda mano, comprata esattamente nel 70, e di un colore orrido, una specie di caffellato, un colore caffellatte, e lui ne ha fatto un uso. Sì, andavano tutte le varie gradazioni del vomito, in tutte le possibili accezioni. Sì, sì, quindi, però, insomma, era quella, quindi, però lui l'ha usato, è diventato una gloriosa 600, è usato per lavoro, per diporto, e addirittura una volta è capitato che venendo da Trapani, dove notoriamente si fanno degli ottimi vini, lui aveva comprato una barrique dove era stato invecchiato del Marsala, perché voleva mettere del vino comprato a Catania, noi siamo catanesi, e lo hanno fermato per la strada, sono circa 300 chilometri Trapani-Catania, e la polizia ha detto: guardi, è perché poi la macchina era caricata di verdure, di cose, insomma c'era di tutto, e anche mia mamma dentro. Dice: faccia parte della merce da portare al mercato. Dovremmo sequestrare non solo la macchina, anche lei, però a questo punto le facciamo solo un verbale e la chiudiamo qua. Ecco, e questo è rimasto la cosa, insomma, nella perché non si poteva trasportare trasporto promiscuo di diciamo ortaggi ed errate e mogli. Paolo che c'ha molto tempo, Paolo velocemente. Ciao Nicoletti, sì. La ringrazio perché mi ha fatto andare indietro nel tempo. Io a quell'epoca lì con mio padre siamo appassionati di ippica, ai tempi quando c'era Ribot, ora non esiste. E ci portavate i cavalli con la 600? No, io andavamo in macchina praticamente a Roma, presimo questo taxi che era, come si ricorda lei, erano neri e verdi, era una 600 multipla, poi andammo all'ippodromo, alle Capannelle. Purtroppo vi siete giocati anche le mutande? No, eravamo proprio appassionati. E quindi abbiamo lasciato sulla 600 multipla un bel cannocchiale che ci serviva per vedere la corsa, capito? Beato chi l'ha trovato. Allora, Giacomo Arosio, riprendiamo con Giacomo Arosio, che è il nostro esperto, ricordo, del portale www.auto-classiche.it. Io abbraccio, ho qualche ricordo, ma qual era la velocità di crociera? Diciamo che era la macchina per spostarsi, ma penso 60-70 all'ora, più non si poteva andare di media per fare un viaggio. Sì, io sono d'accordo con lei, anche perché la velocità massima dei vari modelli, diciamo, attraverso l'evoluzione degli anni, oscilla tra i 95 km orari della prima versione e i 110 dell'ultima, per cui direi la 600D che mi sembra si chiamava, quella allora, che era un po' più, andava un po' più forte, era 750. Esatto, la 600D c'è stata la cilindrata maggiorata e la velocità sale fino a 110 km orari. Sì, ma entrava in fibrillazione, cioè sembrava la macchina del tempo, uno poteva entrare in un'altra dimensione. Credo che 80 all'ora potesse essere una velocità di crociera ragionevole. Cioè è una macchina con il cambio che ancora per scalare le marce bisogna fare la doppia debragliata, cioè passare per il folle e sgassare, sennò grattava il cambio. Anna Maria, buongiorno. Anna Maria è morta, Giuseppe. Sì, buongiorno. Sì. Sì, buongiorno. A me la 600 ha subito rievocato ricordi di infanzia, perché ho 56 anni e ricordo che mio padre ne comprò una usata, quella con la porta antivento, che poi hanno subito rubato alla Sina. E subito dopo ha comprato la 750, che era una versione più evoluta della 600, e con quella macchina praticamente abbiamo fatto un viaggio storico che io non scorderò mai, perché in cinque siamo andati io, mia madre, papà, mio fratello e mia zia, che aveva il fidanzato a Milano all'epoca, per farli incontrare. Abbiamo fatto un viaggio che è durato praticamente un giorno intero. In cinque dentro una 600? In cinque da Latina a Milano. Beh, sì. Al fidanzato l'avete portata, diciamo, già deflorata, sì, perché è un viaggio massacrante. Sì, no, ma è stata bellissima, perché poi tra l'altro erano mio zio era praticamente un direttore della Standa, che erano i primi supermercati, no? Certo. Di Milano. Mia zia invece abitava a Fondi, in provincia di Latina, vicino Terracina, non so se conosce la zona, e praticamente non si vedevano mai, quindi papà ebbe questa idea di portare proprio mia zia a Milano, e pensare che mio padre, insomma, era neopatentato, non è che aveva grande esperienza, quindi è stato un viaggio veramente. Poi i bambini a quel tempo vomitavano sempre in macchina, mi ricordo. Sì, poi ci si sentiva male, ci si fermava sempre che un bambino vomitava. Per fare bisogni, cioè, sì, certo. Veramente erano i viaggi del Far West, del massacro, cosa... Pietro, un altro viaggio massacro con Pietro. Pronto? Sì. Sì, sono Pietro, 50 anni, mi ricordo il viaggio in 600 perché si è incendiata, salita in montagna, passava solo una macchina, il motore si spegne, il papà cerca di arrabbiarla, vede nello specchietto le fiamme alte, giù tutti, stavamo andando in campeggio. Ma ve l'ha detto Arosio, bisogna girare sempre con la tina dell'acqua perché scaldava un pochino. Erano talmente alte le fiamme che è stata una cosa impressionante. Ovviamente andando in campeggio avevamo le bombolette del gas, sono scoppiate, ovviamente sono esplose. Piccolo aneddoto di questa faccenda, la macchina brucia, noi ci veniamo portati in paese, i volontari vanno su, la spostano perché ovviamente non passava più nessuno per questa strada, la mettono in parte, al lunedì mattina i miei genitori vanno a prenderla con un furgoncino e c'era sulla multa perché era parcheggiata in divieto. Erano anni in cui erano ligi anche i tutori dell'ordine. Wanda, buongiorno. Wanda. Buongiorno carissimo, una cosa divertente velocissima. Papà, mamma, io e mio fratellino, io ho una certa età, vabbè, eravamo pronti per andare a questa festa del 31 dicembre, tutti ben vestiti, tutti carini, papà la macchina nuova di zecca sotto al palazzo, 600, scendiamo, ci infiliamo dentro, la macchina non partiva. Mamma mia, che è successo? Vabbè, non importa, la serata è andata così, ritorniamo su, non facciamo più niente, solo che papà un lampo di genio dice, ma vuoi vedere che non ha tolto il freno a mano? Era quello. Cioè partiva ma ingrippava e non camminava. No, stava... niente, infatti, era convinto che chissà che cosa avesse. Giacomo Rose, certo, erano tempi in cui diciamo che anche la familiarità con la guida era molto limitata. Lei pensa una famiglia che la notte di Capodanno rimane a casa perché il padre non ha abbassato il freno a mano. Sì, dobbiamo comunque considerare che per tanti italiani è stata la prima macchina, per cui magari venendo dalle Lambrette, dalle Vespe, erano davvero dei neofiti della guida, per cui si poteva verificare qualche episodio simpatico come quello che era. Diciamo che il salto culturale è stato lungo da quello che c'era prima, dalla bicicletta e dal passo dell'oca alla prima automobile. A domani, anzi a lunedì, grazie.